per colpa di un accento. Per colpa di un accento, un tale Rissantià credeva d'essere alla meta ed era appena a metà. Per analogo errore, un contadino a Rò tentava invano di cogliere le pere da un però. Non parliamo del dolore di un signore di Corfù, quando, senza più accento, il suo cucù non cantò più. Gianni Rodari.